82. Chi? Mi ricordo ancora delle feste che ho fatto ai castelli. Che vedi giocando su per il pallone, a ciappare sì. Metteva su un salame o qualche cosa che metteva su, no? Mi non sta mai in bondanare perché io metto il saon, sì, che non deve arrivo ad andare su, no? Alla piazza, e lì che era un albero, insomma, un piantam, una pianta, e io andavo a tutte queste chi, e dopo che metteva sui premi, chi che arriva su, di ciappa e non ciappa, e dopo che era il concerto. La banda al concerto, che era la banda, che era tipo, sempre tipo vecchio, non che sia stato, e balliva e mangiava. Infatti sono stato su, c'era un paio di mesi, ho guardato dentro il castello, dentro la piazza, di guarda chi quando c'è più le feste. E lì che la come si dice, la casa cosita, e che erano le stanze delle sette vedove. Ecco, lì che sta fatta queste feste, insomma. Era più bella allora che adesso, era papà. Era più bella allora che adesso. Che adesso si va su in farmacia, guarda quella, ma allora cosa vuol dire? La possibilità, diremo, di fare certe robe. Lì che era un'unione dei socialisti, e tutti insieme, di capisce, di fare organizzare queste feste. E queste feste, belle feste però, Bene proprio. E dopo, questa volta, è decaduto tutto, come si dice, col tempo è decaduto tutto. Via dicendo, cosa che ti dico, erano gli anni più bei che si è passato. E parliamo dopo il 45, parliamo del che ti dica, esatto, proprio non posso dirti, però verso i 60 anni, così, 55, 60 anni che si è cominciato a fare queste organizzazioni, a fare queste robe. Prima non era mai stato niente, non è che era delle altre, era che se era sti socialisti di Besenel, che organizzava questa festa per il castello Besenu, insomma. Per gli tutti dopo, ma che l'organizzazione, che era il Porto Riccio Battistot, che era come si dice, il Guido Kofler, dopo che era il Simonim, e gli organizzatori, diremo, di queste feste. E dopo che ne erano ancora diversi, adesso non mi ricordo neanche tutti i nomi, poi è passato. Quando? No, come adesso. Il giornale è bello, ma era tempi più bei, più tele. Si voleva più bene. Come ripeto, ci si porteva più rispetto. Ma tutti a piedi. Tutti a piedi. Ma che era gente, sai, non mia che ne era una, dopo si aveva la mura. Quando ti sapevi con un bicchiere di vino, perché era feste, che era vino, che era da mangiare, da bere, non è che una roba fatta bene, insomma, no? Organizzata, quindi sempre da Besenel. E ha fatto queste feste, se tu vai la mura, se tu vai le carte, qua e là, e dopo se tu vai, qui era tu famoso, come ti ripeto, pallon che ne ha su, e le ha un duco sciocchia che va su. E pure che ne ha detto che era su, per prendere, che era su salami, che era su diverse cose, insomma. era bello, meglio da derba. Da. La guerra per come no? Era la banda che la guerra anche lassù, ma in tipo vecchio, sai? È come dire. Tipo vecchio, non ho sempre con la banda, ho teso la banda, per Baco. Fate delle belle beverate, ma no, non ho mai giocato. Era qui che giocava, giocava le carte, chi giocava le carte, chi giocava dove l'uomo. Ognuno che era. No, che avevano tutti, diremmo, la nostra direzione, che il Battistotti, il Ferruccio, lì. Era la direzione, Guido Copre, Simon. E dopo chi è che era? Che era un altro dei sfegatati, non mi viene più in mente. Che sai, allora noi queste organizzazioni le pia ai socialisti di Brenel, era il più forte a Brenel dei socialisti. Comunque vi dico che era bello. Era bello, si godeva sia che erano poveri, senza soldi, però era una comunione che ne avevano insieme e trovavano stati i partiti che fanno, e tira su no, i soldi delle tessere, e fece questo mistero da organizzare queste feste. Così ti sei avanti, perché dopo. E si è spente dopo sparire i socialisti e sparire. Oh, come cominciava, come se sai che è sotto la direzione dopo ti fai andare su. Battistotti e il Ferruccio ne fai andare su e Guido Cooper vai su a Catico, sapeva, vai su a piantare il palomo, a mettere su la roba e dopo là a vedere. Ma non era più bello potere. Più bello da terra era. Ancora i sensori, perché se è la salute ancora i sensori. Però, voglio dire, ne volevano più bene, e ne rispettavano più bene, e ne aiutavano più bene. Che adesso, e cerca di metterlo in quel posto tutti. Boh, altro Brenel, veniva Cagliam, veniva tutti, veniva. Che i socialisti di Cagliam, ma era sempre il ramo dei socialisti che. No, per quello era bello. Forse gli unici giorni che passava più bello era la vita, perché era bello vedere quando veniva su con questo palomo e quando gli ha detto che ti cascava con le cose perché l'avevano su col saum, no? E dopo invece di stare qui che sta capitale e gli andai su a ciappare i premi. Sì, salami, di tutto, roba da mangiare insomma. L'albero della cucagna, sì, ma in castello non l'ho mai visto, Mina, no. Facevano le feste, i concerti, siccome io avevo due zii che suonavano nella banda, quando facevano queste feste mi portavano così a vedere. Dunque, dovrei essere stata? Il 40, vedo che penso, no? Prima, mettiamo il 32, il 35. Sì, ricordo che avevo anche una foto, ma. Mi ricordo. Che era su due dei mesi. Feva sempre, durante l'estate, feva due o tre feste in castello. Feva sto concerto. Uno suonava il flauto e l'altro il violino.